GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ballottaggi, urne aperte da un'ora e mezza a Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo per il secondo turno delle comunali. Si vota fino alle 23, poi subito lo spoglio dei risultati. Al voto quasi 60.000 aventi diritto. La guerra in Ucraina ha fatto diventare il gas una risorsa a rischio. La siccità ha svuotato gli invasi e dimezzato la produzione di energia delle centrali idroelettriche. Riaccende perciò l'impianto a carbone di Monfalcone per almeno un mese. La polemica sulle auto mediche per gli interventi d'emergenza. Sono 4, meno delle 6 previste, aveva denunciato il sindacato regionale degli anestesisti rianimatori col suo presidente Alberto Peratoner. Dal SORES, il servizio regionale per le emergenze, il responsabile Amato De Monte replica: manca personale, ma sono aumentate le potenzialità dell'elisoccorso. 6.400 spettatori, tutto esaurito ieri sera all'Allianz Dome di Trieste per Italia-Slovenia. Vincono questi ultimi per 90 a 71 dinanzi a ben 4.000 tifosi sloveni. In campo la stella indiscussa Luka Doncic, ma la standing ovation è per il coach Pozzecco al suo esordio sulla panchina azzurra. Domenica 26 giugno 2022, sono le 8:31 minuti e 45 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Livia Liberatore e Antonio Cagliazza. Vediamo come il tempo, il cielo è sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, da variabile a nuvoloso sui monti, ed ecco le temperature registrate alle 8. Trieste 27 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 26 gradi e mezzo. A Pordenone 25, a Udine 24 e mezzo, a Gorizia 24, Tolmezzo 21, Tarvisio 18 e mezzo, Forni di Sopra 18, Piancavallo 16 e mezzo, Sappada 12, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Monte Lussari 13 e mezzo, a Lignano e a Grado 24. La temperatura del mare nelle due località è di 26 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA regionale per oggi: dunque bel tempo, cielo sereno su pianura e costa, mentre sui monti sarà sereno in mattinata, poco nuvoloso in genere dal pomeriggio, venti di brezza e temperature di qualche grado sopra la norma del periodo. Domenica di ballottaggi a Gorizia, Codroipo e Azzano Decimo, a 14 giorni dalla prima tornata delle comunali. Le urne sono aperte dalle 7, chiuderanno alle 23. 58.828 i potenziali elettori e un totale di oltre 78.000 cittadini da amministrare. Per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di identità valido. Chi avesse smarrito o deteriorato la tessera potrà ottenerne un duplicato presso gli uffici dei comuni, che saranno aperti per tutta la durata della votazione. A differenza di domenica 12 giugno, lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. La nostra redazione lo seguirà sul nostro sito all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social. Primi risultati e commenti nel GR di domani mattina e poi anche con collegamenti in diretta negli altri notiziari della giornata. La centrale a carbone di Monfalcone sarà rimessa in funzione, stavolta non per pochi giorni come era già accaduto, ma per almeno un mese. Occorre il suo contributo alla rete elettrica per far fronte alla penuria d'acqua nei bacini. Nel bacino del Lumiei, la maggior riserva idrica regionale, nei primi 6 mesi dell'anno la media delle precipitazioni, ovvero l'alimentazione della produzione idroelettrica, è stata del 60% in meno rispetto agli ultimi 10 anni. E così da gennaio a giugno gli impianti idroelettrici A2A in Friuli Venezia Giulia hanno prodotto la metà dell'energia di un tempo. I scompensi del sistema idroelettrico, l'incertezza sulle forniture di metano russo e la necessità di fare scorte di gas per l'inverno hanno portato alla decisione di chi gestisce la rete di trasmissione nazionale di chiedere ad A2A di riattivare la centrale a carbone di Monfalcone, che questa volta non si spegnerà dopo pochi giorni, potrebbe rimanere accesa per tutto il prossimo mese. L'azienda ha riattivato l'approvvigionamento del carbone, ma anche a causa dell'embargo sulla materia prima della Russia è impossibile reperirlo a prezzi bassi ed in tempi brevi. Il costo a tonnellata è più che raddoppiato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Covid, vediamo gli ultimi dati sulla circolazione del virus in Friuli Venezia Giulia. Su un totale di 6.270 test e tamponi, ieri sono stati riscontrati 1.387 nuovi casi. Tasso di positività dunque arrivato al 22,1%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, 3 in più, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136. È stato registrato un decesso a Udine. Mancanza di risorse umane alla base della mancata attivazione di 6 automediche ogni giorno 24 ore su 24. Dopo la polemica innescata dal presidente del sindacato degli anestesisti rianimatori per Atoner, Amato De Monte, a capo del SORES, ricorda anche l'incremento dell'operatività notturna dell'elisoccorso. La nuova polemica del sindacato degli anestesisti rianimatori si innesta sul numero di automediche attive in regione. Il presidente regionale di Aroi EMAC, Alberto Peratoner, piano dell'emergenza urgenza alla mano, contesta le dichiarazioni dell'assessore alla salute Riccardi in terza commissione relativamente all'aumento del numero degli equipaggi. Peratoner afferma che il piano ne prevede 6 24 ore al giorno, mentre ce ne sono solo 4 giorno e notte a Trieste, Gradisca, Udine, Pordenone e 2 soltanto diurne alla Tisana e Opicina. Il PEU, spiega il direttore del SORES, Amato De Monte, risale al 2015 ed è una programmazione che si realizza nel tempo. 7 anni fa le automediche erano di meno, Pordenone non l'aveva e adesso c'è sulle 24 ore. Quella di la Tisana da notturna è diventata diurna. Inoltre nel periodo turistico a Lignano l'assistenza sanitaria è garantita giorno e notte dal punto di primo intervento, dove sono sempre presenti un medico, la guardia turistica, personale infermieristico e un'ambulanza. Nel sito è presente anche la piazzola per l'elisoccorso se dovesse servire un trasferimento urgente a Udine di giorno o di notte. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. L'associazione Partigiani Osoppo Friuli ricorda i partigiani della Brigata Osoppo uccisi al Bosco Romagno nel 1945. La cerimonia commemorativa si terrà alle 10:30 sul cippo collocato dall'associazione al Bosco Romagno nel comune di Cividale. L'arcidiocesi di Udine in festa per l'ordinazione di 4 nuovi sacerdoti. La solenne celebrazione si terrà alle 16 nella cattedrale di Udine, presiderà l'arcivescovo Bruno Mazzoccato. I nuovi sacerdoti sono Don Matteo Lanaro, Don Davide Larcher, Don Gabriele Pighin e Don Alberto Santi. Ultima giornata per il quarto motoraduno nazionale città di Udine. Oggi dalle 11 in piazza Primo Maggio si terrà la parata nel centro storico di Udine per un percorso di 15 chilometri. La comunità di Fiumicello Villa Vicentina ha presentato ieri con un'escursione conoscitiva il progetto di risanamento ambientale del comprensorio territoriale denominato Fossa Vecchia. Si tratta di un recupero che prevede la coesistenza equilibrata di aree naturalistiche, piantagioni agricole sostenibili e anche una riserva di caccia. 100 anni fa la bonifica delle paludi, poi le coltivazioni, oggi per la Fossa Vecchia di Fiumicello Villa Vicentina un nuovo percorso democraticamente condiviso tra i cittadini, gli agricoltori, le associazioni ecologiste e i circoli venatori attraverso la consulta ambiente e qualità della vita coordinata dal comune. Un lavoro di squadra che prevede 50 ettari a bando per agricoltura biologica sostenibile, 7 ettari a riserva di caccia e 15 ettari a zona naturalistica con ambienti umidi. La guida avifaunistica Paolo Utmar. Abbiamo osservato una quarantina di specie, tra l'altro 11 specie della direttiva uccelli della comunità europea, la sgarzaciuffetto ad esempio, che è un raro nidificante, la pantana, il combattente, addirittura un giovane di Aquila Reale ha sorvolato la zona. Fiumicello, Villa Vicentina, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La rassegna Musica con Vista oggi è di scena a Palazzo Lantieri di Gorizia alle 20:30 con il quartetto d'archi Henao, un concerto inserito anche nel cartellone del progetto Beethoven, la nuova rassegna musicale estiva organizzata dalla Società dei Concerti. La formazione, nata a Roma nel 2014 nell'Accademia di Santa Cecilia, eseguirà brani di Beethoven e Schubert. Doppio appuntamento oggi per Folkest in Friuli. A Cercivento alle 16 nella Chiase da Int suoneranno In Afuoia, gruppo proveniente dal vicino Cadore, con la loro musica tra tradizione e modernità. A Polcenigo arrivano invece in piazza Plebiscito alle 20.45 dal Molise i Musicanti del Piccolo Borgo, gruppo storico tra i più longevi del centro Italia. E siamo al basket, una grande festa ieri sera all'Allianz Dome di Trieste per Italia-Slovenia, è mancata però la vittoria azzurra, il match è finito 90-71 per gli sloveni. La partita di per sé ha poco da dire, i 6.400 dell'Allianz Dome hanno occhi solo per Luka Doncic, il campione dei Dallas Mavericks, non esattamente in una forma fisica smagliante, ripaga con un po' di show, 12 punti, miglior marcatore della Slovenia, con qualche canestro spettacolare e un paio di assist meravigliosi. I bambini italiani e sloveni, tutti rigorosamente con la canotta di uno dei 5 migliori giocatori al mondo e sicuramente tra i più popolari, si stropicciano gli occhi. Non capita ogni giorno di vedere un giocatore del genere, seppur sovrappeso, appeso a due passi da casa. All'Allianz Dome sono più di 4.000 i tifosi sloveni, più che a Trieste sembra di giocare a Stožice, casa dei Plavi. L'Italia del resto arriva con una squadra sperimentale, con tanti esordienti e poca preparazione. Se per Doncic e Goran Dragic, l'altra stella NBA, è un ottimo allenamento in vista degli appuntamenti estivi dei campioni d'Europa, altrettanto non si può dire dell'altra star della serata. La prima di Pozzecco in azzurro a casa sua è una netta sconfitta. 71-90 con l'Italia mai veramente in partita. Le assenze dei big si sentono soprattutto nella mancanza di personalità. Si salvano Polonara e il giovanissimo Volte Tensae, che si toglie lo sfizio di rubare un pallone a Doncic e involarsi in contropiede nello stupore generale. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La corsa, al via tra poco alle 9 la 10 miglia internazionale Aviano Piancavallo, gara internazionale di corsa che partirà dalla pista di atletica leggera di Via Stretta ad Aviano per arrampicarsi fino al cuore dell'Altopiano e andare a concludersi nell'area sportiva Ronciade. Collaterali alla gara sono previste altre prove competitive non agonistiche di corsa e Nordic Walking. Calcio giovanile, si conclude la Female Football Tournament di Gradisca di Sonso, quadrangolare internazionale Under 17. Oggi in programma le ultime due gare, Italia-Messico alle 16.30 a Villesse e Italia-Cile alle 18.30 a Gradisca. Il Cile è attualmente in cima alla classifica con 5 punti, seguito dal Messico a quota 4, Italia a 3 punti, l'India a 0. Il baseball, i New Black Panthers di Ronchi impegnati oggi in Lombardia a Senago per la sesta e ultima giornata della Pool Salvezza. In programma due match alle 11 e alle 15.30. E Udine ospita la quinta tappa del campionato regionale di skateboard. Le gare inizieranno alle 11 al Giglio Skate Park di Via Lombardia. La rassegna stampa, Miramare conquista i fondi per la strada delle carrozze, questo è il titolo principale della prima pagina del Piccolo di Trieste. C'è anche Trieste nel 1.800.000.000 di euro che il Ministero della Cultura ha assegnato a borghi, teatri, cinema, musei e luoghi di culto col PNRR. Il capoluogo regionale porta a casa quasi 6 milioni sui 41 per il Friuli Venezia Giulia, di cui 20 vanno a Gorizia per Borgo Castello. Foto al centro della pagina, un momento della partita Italia-Slovenia all'Allianz Dome. La Slovenia vince l'amichevole del debutto di Poz e Poz sta per Pozzecco, il coach triestino che guida gli azzurri. I richiami di spalla, inflazione e rincari a sinistra, dal 20% del pane al 120% dell'olio, gli aumenti dei prezzi a Trieste e Gorizia. E sotto, abbiamo 6 figli, fateci acquistare le maxi confezioni per ristoranti. È la proposta di una famiglia numerosa di cui all'interno si raccontano le vicissitudini. Sul lato destro, un investigatore in porto, due dipendenti Adriafer cacciati per assenteismo. Autisti positivi al Covid, ieri sono saltate 300 corse, poi l'emergenza è rientrata, caduta in monopattino, il giudice scagiona l'automobilista multata. Nella pagina dei commenti una riflessione di Roberto Morelli, quei tasselli mancanti della cabinovia a Trieste, serve, è coerente col nostro tessuto urbano, sosterrà veramente il turismo e gli spostamenti dei residenti? Si chiede, l'unica cosa che non potremo permetterci è che un'opera così impattante fallisca nel suo utilizzo, scrive Morelli. Più dimissioni da lavoro e contratti di pochi giorni. È il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine, che riporta i dati dell'IRES regionale. Poco sotto il richiamo a un'altra notizia: acqua e rifiuti, primo passo verso una holding regionale. Al centro pagina una foto di Elisabetta Molaro, vittima di femminicidio a Codroipo, con una intervista alla madre. Nella colonna di sinistra la politica: il Movimento 5 Stelle punta su Patuanelli, è l'unico che può affrontare Fedriga. E il commento: così 75 anni fa nacque la regione Friuli Venezia Giulia. La cronaca sulla destra: la tisana, lutto per l'ex assessore Grossi, morto a 54 anni, deceduta la donna investita due giorni fa a Udine mentre andava in bicicletta e cade mentre lavora sul tetto dell'azienda, è grave un operaio. Sul fondo la storia di un architetto udinese sfida il Parkinson attraversando in bicicletta gli Stati Uniti. Anche il Gazzettino del Friuli apre con i dati dell'IRES, boom di dimissioni, il lavoro non è più sacro. Nella fotonotizia Palma Nova, che festeggia 5 anni di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, sulla destra il TAR riaffida l'appalto per i servizi di pulizia nelle sedi dei pompieri e il giallo della Molotov lanciata contro un'auto in sosta della polizia a Udine, indaga la mobile. Titolo elettorale sulla prima dell'edizione isontina del Piccolo: urne aperte fino alle 23, Gorizia sceglie il sindaco, Ziberna o Fasiolo, il verdetto con l'incognita affluenza. Foto di centropagina, 130 anni di turismo a Grado fra sfilate d'epoca e giochi di luce. Per 24 ore Grado è ripiombata agli inizi del Novecento, costumi d'epoca, valzer, sfilate, discorsi ufficiali e una speciale proiezione tridimensionale. L'articolo all'interno è di Antonio Boemo. Paginone culturale comune alle due edizioni. Apre la Joyce School, studiosi da tutto il mondo tornano sui banchi con 15 superdocenti. Al via da oggi la 24esima edizione della rassegna, che ritorna dopo due anni di assenza nel centenario della pubblicazione dell'Ulisse. Il lavoro non è più sacro è il titolo di apertura anche dell'edizione di Pordenone del Gazzettino, boom di dimissioni da impieghi sicuri nei primi sei mesi dell'anno. Nella foto al centropagina le ragazze del Pordenone Calcio Under 19 diventate campionesse d'Italia, uno scudetto nero-verde. Nel taglio centrale i nuovi monopattini nel mirino dei vandali a Pordenone, denuncia in arrivo. Nella colonna di destra l'emergenza siccità, prime case rimaste senza acqua, si tratta di due abitazioni private a San Vito al Tagliamento. E sotto la sanità: ogni reparto in ospedale avrà stanze per il Covid, la scelta dell'ospedale di Pordenone. Anche Messaggero Veneto titola sul lavoro: più dimissioni e contratti di pochi giorni. Nella fotonotizia qui c'è il carnevale di Pordenone a oltre 30 gradi per la sfilata fuori stagione. Poi sulla colonna destra la siccità: 8 guardiani vigilano su irrigazioni e prelievi abusivi, il Covid, posti esauriti a Pordenone, ricoveri anche a San Vito. E da Sacile, ciclabile infinita, dopo 27 anni parte una raccolta di firme. Sul fondo anche qui le ragazze del Calcio Under 19 del Pordenone diventate campionesse d'Italia. Ancora qualche appuntamento di questa giornata: La contadina di Johann Adolf Hasse, compositore tedesco dall'anima italiana, è un tipico intermezzo settecentesco, una sorta di soap opera del tempo servita nell'intervallo delle grandi opere serie. Lo spettacolo viene portato in scena dalla formazione israeliana Carmel Quartet per il Piccolo Opera Festival, stasera al Castello di Kronberg a Nova Gorizia e domani a Villa Russizza a Capriva del Friuli, con inizio sempre alle 19. Lo spettacolo Di qua e di là dall'acqua, racconti del Tagliamento con Bruna Braidotti, fa tappa al Parco Comunale di Camino al Tagliamento alle 19 nell'ambito del tour turistico teatrale Teatri fuori dai teatri. Precede lo spettacolo l'escursione alle 17 verso il fiume Tagliamento con partenza da Pieve di Rosa e a seguire lo spettacolo la cena alla sagra di Camino al Tagliamento. La nuova orchestra Ferruccio Busoni in concerto per Valcellina in musica nella chiesa di San Giovanni Battista Barcis alle 20:45. 5 si conclude a Muggia la rassegna Festa Barocca con due concerti, alle 11 nella Chiesa di San Francesco e alle 21.30 in Duomo, con l'esibizione finale dei partecipanti alla masterclass di strumenti antichi. Abbiamo concluso, sono le 8.49 minuti e 30 secondi, assistenza tecnica di Giuliano Pecorari, ha collaborato in redazione Manuel Bussani, Ludovico Fontana ha partecipato alla redazione dei testi. Per il momento è tutto, tra poco va in onda Vita nei campi. Grazie della cortese attenzione da Livia Liberatore e da Antonio Cajazza. Buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.